24, i gialli della storia. Per terra c'erano dei soldati. Uno non aveva più le gambe e gridava: sparatemi, avanti, sparatemi. E noi eravamo lì, impietriti a guardarlo. Non può durare ancora molto. Saremo annientati dall'inedia e dalle sofferenze. Spero solo che questo strazio finisca in fretta. La battaglia di Stalingrado è certamente la più lunga e sanguinosa del secondo conflitto mondiale e anche la più grande sconfitta subita dai tedeschi. Dall'estate del 42 fino all'inverno del 43 si fronteggiano da un lato gli uomini della Wehrmacht e i suoi alleati, dall'altro i soldati dell'Armata Rossa in una estenuante battaglia in cui l'armata tedesca guidata dal comandante Paulus viene annientata. Ma a fare più morti di tutti non sono le armi, ma la fame, la sete e le malattie. E poi il freddo, il grande nemico che lascia sul campo migliaia di soldati. Oggi a Mix 24 proporremo il racconto di quella battaglia attraverso le voci dei reduci che quella battaglia l'hanno combattuta, ma che non hanno mai dimenticato le difficoltà, la sofferenza, la disperazione. È il gennaio del 43, la battaglia dura ormai da 53 giorni. L'8 gennaio l'Armata Rossa offre ai tedeschi la possibilità di una resa onorevole, ma da Berlino Hitler respinge ogni negoziato. 48 ore dopo, 7 armate sovietiche assaltano il fronte della sacca di Stalingrado e 250.000 soldati russi travolgono le postazioni tedesche. Alla fine i panzer russi hanno sfondato. Non so quanti fossero con precisione, ma hanno letteralmente travolto la nostra postazione e poi sono tornati indietro per passare sopra i soldati che erano nelle trincee. Nel tentativo di porre fine a questo orrore, si decide di inviare un ufficiale in Germania. La persona scelta è un capitano pluridecorato, Winrich Baer. Mi dissero: Baer, abbiamo deciso di mandarla da Hitler. Dobbiamo fare in modo che a Berlino aprano gli occhi e si rendano conto di quello che sta succedendo qui. Devono darci carta bianca per negoziare. Paulus voleva la resa. La capitolazione, secondo lui, non aveva più nessun senso. Lasciare gli uomini a morire di fame o a congelarsi. La missione di Baer è l'ultimo disperato tentativo del comando della Sesta Armata per salvare vite umane. 14 gennaio 1943, Baer arriva alla Tana del Lupo, il quartier generale del Führer, ma sa già che convincerlo sarà molto difficile. Alla fine la porta si aprì ed entrò Hitler, che mi disse: Heil, capitano. Io scattai sull'attenti e risposi: Heil, mio Führer. Hitler mi disse: venga con me. Attraverso una porta entrammo nella famosa sala delle riunioni. Qui raccolsi tutto il mio coraggio e dissi: mio Führer, ho l'ordine dal mio comandante di farle un rapporto della situazione ed avanzare una richiesta. Chiedo il permesso di eseguire questo ordine. Era presente anche Keitel, il quale annuì. E anche Hitler disse: sì, signore. Devo dire che mi lasciò parlare per 3 ore buone, senza mai interrompermi, né sollevare obiezioni a quanto io gli dicevo. Ma la sua decisione Hitler l'ha già presa da tempo. Stalingrado deve essere ottenuta a qualunque costo. È una questione di principio e poi si tratta anche della città che porta il nome del suo grande nemico, Stalin. Ovviamente ero arrabbiato, molto arrabbiato. Comunque sia, quella per me fu la prova che era vero quanto la gente diceva, ossia che Hitler aveva perso ogni contatto con la realtà. Hitler, insomma, ha abbandonato i suoi soldati, condannandoli alla fame e alla morte. Ma il destino più crudele tocca ai feriti. Negli scantinati della città di Stalingrado ci sono 40.000 tedeschi feriti, ormai abbandonati a se stessi. le cantine erano piene di feriti, anche feriti gravi, febbricitanti, in fin di vita. C'era un tanfo insopportabile, penetrante. Sembrava, come posso dire, sembrava un obitorio pieno di cadaveri viventi. C'erano diverse migliaia di prigionieri russi feriti e affamati. Fra questi, tanti impazzivano o diventavano cannibali. I tedeschi non si curavano più dei prigionieri perché anche loro erano fra la vita e la morte. Per i soldati tedeschi c'è una sola, ultima speranza: le piste di volo di Pitomnik e Gumrak. Il 23 gennaio, uno alla volta, arrivano degli aerei per prelevare i feriti. Ad attendere l'aereo per fuggire, oltre ai feriti, ci sono anche gli specialisti, personale militare specializzato che deve essere salvato ad ogni costo. Sulla pista di volo regna ormai il caos. I soldati provano in ogni modo a salvarsi prendendo d'assalto gli aerei che arrivano per prelevare i feriti. Su quegli aerei avvenivano scene indescrivibili. Il caos più totale. Continuavano ad accalcarsi e accalcarsi, anche dove c'erano già distesi i feriti. Come se non bastasse, i russi sparavano sulla pista con l'artiglieria. Allora il pilota diceva: dobbiamo assolutamente decollare. Cominciavamo a rullare, ma l'aereo non riusciva a decollare, perché fuori, a destra e a sinistra, era pieno di soldati, sulle ali, dappertutto, ovunque fosse possibile aggrapparsi. Allora il pilota era costretto a procedere a zigzag, finché questi non mollavano la presa. Poi il pilota fece salire di quota l'aereo, intorno ai 2000 metri. Superate le nuvole, fu come un miracolo vedere la luce del sole. All'improvviso tutto era chiaro e splendente. Per me fu come rinascere una seconda volta. È una cosa inimmaginabile. Non riuscivo ancora a rendermi conto della nuova realtà, che tutto era finalmente cambiato. Dopo il freddo, la fame, le sofferenze, gli spari, le bombe, le urla dei feriti, mi ritrovavo in un letto pulito e caldo e avevo anche da mangiare. E quando un infermiere mi ha imboccato una pappa di riso da una scatoletta di latta, mi sono messo a piangere, senza ritegno. Mi caricarono sul treno per i feriti e partii diretto verso casa. Invece poi il treno si fermò in Polonia. Hitler non voleva che i feriti rientrassero in Germania. Eravamo denutriti. E il nostro aspetto non era dei migliori. Fatto sta che finii all'ospedale militare di Sacopane. Soltanto alcuni mesi dopo ho fatto rientro in Germania e sono stato messo nella riserva, nella clinica oculistica di Halle, dove il professor Klause mi ha operato togliendomi la scheggia che avevo nella guancia. Ma passarono 2 anni e mezzo prima di ottenere il congedo e rivedere casa. Nell'inverno del 43 pochi in Germania conoscono quale sia il destino della Sesta Armata. La macchina della propaganda minimizza, riferisce solo di duri combattimenti sul Volga, ma molti ormai non credono più ai bollettini di guerra ufficiali e cercano risposte. Hildegard, moglie di Helmut Tomisch, uno dei soldati, racconta come ha cercato informazione sulla sorte del marito. Non sapevamo nulla dell'accerchiamento. Questo a gennaio. Alla fine di gennaio Ho deciso di fare una cosa che era assolutamente vietato fare. Ho sintonizzato la radio sulle frequenze della BBC. Ricordo che sentii... Qui Radio Londra, qui Radio Londra. La Sesta Armata è stata abbandonata al proprio destino. Era terribile. Mi sono accasciata su una poltrona e non riuscivo a capacitarmi. E poi il modo in cui lo dicevano, una cosa sconvolgente. Tra i soldati tedeschi molti scelgono il suicidio per il terrore di diventare prigionieri russi e dover sopportare condizioni anche peggiori. Io non sono riuscito a suicidarmi. Pensavo, ho 22 anni, sono troppo giovane per sacrificarmi per quel... diciamolo pure, per quel criminale. 26 gennaio 1943. L'Armata Rossa riesce a separare in due le forze tedesche a Stalingrado. I generali, intanto, continuano ad obbedire agli ordini di Hitler. Il feldmaresciallo Paulus e il suo stato maggiore si rifugiano negli scantinati di un grande magazzino nella Sacca Sud. Anche se non ha più alcun senso resistere, solo pochi ufficiali si dichiarano intenzionati a deporre le armi. Uno di loro, il capitano Gerhard Dengler, cerca in tutti i modi di arrivare al quartier generale di Paulus. Per prima cosa sono quasi svenuto per il puzzo di sigaro e carne alla griglia. Poi è subentrata la rabbia. Noi là fuori siamo costretti a diventare cannibali e qui al comando d'armata hanno ancora carne da cuocere alla griglia. Poi ho sentito l'odore di cognac e mi sono sentito ribollire ancora di più. Allora ho chiesto, perché non ci arrendiamo? Paulus mi rispose, per lei è tutto più facile. Lei vede solo il bianco degli occhi del nemico. Mentre io qui devo tener conto di alte questioni strategiche. La cosa non mi convinse affatto. La presi come una scusa da vigliacchi e mi montò di nuovo la rabbia. Paulus probabilmente se ne accorse perché mi disse a bruciapelo: a quanto pare, capitano, è arrivato il momento della verità e l'iniziativa passa agli ufficiali di truppa. Uno schifo. Ho cercato di controllarmi, ma poi la rabbia ha ripreso a montarmi. Guarda qua, pensai. Ecco 20 generali, tutti troppo vigliacchi per arrendersi. E dicono a me, un semplice capitano, che se voglio prendere l'iniziativa e arrendermi, ne devo accettare anche le conseguenze. E se un giorno Hitler mi metterà al muro, beh, peggio per me. E mi sono detto, se tu, Paulus, sei l'unico ad avere i pieni poteri per trattare una resa, perché non lo fai? Ma sono pochi gli ufficiali che giungono alla stessa conclusione, che pensano sia meglio trattare una resa. La maggior parte dei soldati si sente ancora vincolata al dovere e all'onore. L'onore era un vincolo per tutti. Chiunque infrangesse il vincolo d'onore era un traditore del Reich e veniva condannato a morte, anche in contumacia. In occasione del 10° anniversario dell'avvento del regime nazista, Hermann Göring trasforma la disfatta in una saga eroica e nel discorso del 30 gennaio del 43 pronuncia queste parole. In fin dei conti, per quanto possa sembrare duro, per i soldati è indifferente morire a Stalingrado, a Resch, nei deserti d'Africa o sulle distese di ghiaccio della Norvegia. È un sacrificio che comunque compiono per la vita del loro popolo. Nella sacca di Stalingrado, i soldati tedeschi ascoltano alla radio la loro orazione funebre. A quel punto ho perso completamente il controllo. Non solo per me, ma per tutti noi. A sentire Göring, eravamo già tutti morti con l'ultimo ufficiale che si era fatto saltare in aria insieme ai suoi uomini. E invece eravamo ancora vivi a migliaia e le nostre mogli, i nostri figli, dovevano sorbirsi una menzogna tanto infame. 2 febbraio 1943, la battaglia di Stalingrado è finita. 100.000 soldati tedeschi si arrendono, fra loro anche Paulus. Poco prima della fine, Hitler l'aveva promosso feldmaresciallo, un inequivocabile invito al suicidio. Quando viene a sapere della resa, il Führer va su tutte le furie. Paulus, dice, è un rammollito senza spina dorsale. Non era mai successo che un feldmaresciallo tedesco si consegnasse al nemico. Secondo i rapporti ufficiali, al momento della resa vengono uccisi 2.418 soldati tedeschi, 8.646 vengono fatti prigionieri. Di fatto, però, gli ultimi soldati tedeschi deporranno le armi solo all'inizio di marzo. Stalingrado è la prima grande vittoria dell'Armata Rossa. Il suo successo sul Volga è una tappa fondamentale. Il momento di svolta della Seconda Guerra Mondiale. Per i prigionieri tedeschi la resa vorrà dire affrontare un futuro incerto. Per questi uomini stremati la marcia verso la prigionia diventa una vera e propria tortura. Mi sentivo come un pezzo di legno. Ero incapace di decidere qualsiasi cosa. Mi facevo semplicemente trascinare dagli altri. Alla sera ero talmente sfinito che mi sono messo a sedere a un lato della strada nella speranza che uno dei russi che ci scortavano mi desse il colpo di grazia. A un certo punto sono venuti due soldati del mio reparto che mi conoscevano e che evidentemente mi avevano preso in simpatia. Mi hanno preso uno a destra e l'altro a sinistra e mi hanno aiutato a raggiungere la colonna in marcia. Mi dissero che durante la prigionia volevano lavorare e che erano decisi a tornare a casa a tutti i costi. Solo allora mi accorsi che anch'io volevo la stessa cosa. Dopo la resa delle forze tedesche, stremate dal freddo e dalla fame, inizia la lunga marcia dei soldati fatti prigionieri dall'Armata Rossa. Ma la grande paura dei soldati tedeschi di essere tutti giustiziati sul posto risulta infondata. A morire però sono comunque tantissimi e la massa di prigionieri tedeschi mette a dura prova le risorse di cui dispone l'Armata Rossa. Sentiamo le testimonianze di Lev Brzezinski, ufficiale russo. Facemmo un grosso errore di valutazione. Il comando sovietico e il reparto pianificazione sbagliarono completamente i calcoli. Pensavamo che nella sacca ci fossero intorno agli 80.000 tedeschi. Invece erano quasi 250.000. Prima della fine della primavera del 43, nei campi di prigionia improvvisati intorno a Stalingrado, muoiono 50.000 persone. Per molti di loro la prigionia è il colpo fatale dopo 12 settimane di fame e stenti trascorse nella sacca di Stalingrado. Era quasi un sollievo quando qualcuno moriva e il giorno dopo veniva portato via, perché così avevamo più spazio. Ogni giorno davanti alle baracche c'erano cumuli di cadaveri che poi venivano portati via dai soldati russi. Una notte però decisi che non volevo più rimanere nella baracca. E in tanti non si facevano problemi a urinarsi addosso, a sporcarsi lì dove erano. Là dentro c'era una puzza insopportabile, terribile. Non resistevo più. Dovevo assolutamente uscire da quella baracca. Il fatto è che fuori tirava un vento gelido, c'era la neve. Allora attraversai il campo e cercai di entrare in un'altra baracca, ma mi cacciarono via. Andai a un'altra, più appartata, tranquilla. Entrai, mi orientai a tastoni, mi raggomitolai in mezzo a tanti fagotti di stracci. Ero stanco morto. E mentre mi stavo addormentando mi accorsi: questa è una mano, questa è una testa. Insomma, ero nella baracca dove stipavano i cadaveri. Stavo dormendo in mezzo ai morti. Io mi ammalai di tifo ed era una sensazione strana svegliarsi al mattino e accorgersi che il proprio vicino era morto. D'altra parte, però, ho notato che la morte per tifo, per certi versi, era più umana. Nelle ultime fasi della malattia, i malati cominciavano a delirare. Volevano andare all'aeroporto, alla stazione. Chiedevano di riavere le chiavi di casa, in modo da poter rientrare. I medici sovietici tentano, come possono, di aiutare quelli che fino a poche settimane prima erano i loro nemici. Quando scoppiò questa epidemia, ci fu una dottoressa ebrea che si rivelò particolarmente umana. Questa dottoressa veniva da Leningrado. In un bombardamento dei tedeschi aveva perso un braccio e credo anche tutta la famiglia. Eppure, poverina, si prodigava per i suoi pazienti tedeschi. Fu proprio quella dottoressa a salvare anche me quando mi spedì in un ospedale militare contro la mia volontà. Se non ci fossi andato, avrei contratto anch'io il tifo. Il personale medico si dava da fare in ogni modo. Il nostro ufficiale medico diceva: qui dentro non esistono fascisti, ma solo esseri umani, pazienti. Soltanto 33.000 soldati tedeschi sopravvivono ai campi di prigionia. La loro condanna sono i lavori forzati. Stipati in treni merci senza riscaldamento, ricevono da mangiare solo ogni 3 giorni. Quasi la metà muore durante il trasferimento attraverso l'intera Unione Sovietica. Solo 18.000 arrivano nei campi di lavoro degli Urali, in Siberia, nel Kazakistan, dove vengono impiegati nelle miniere di carbone e di uranio. Alcuni di loro vengono processati come criminali di guerra e condannati fino a 25 anni di lavori forzati in regioni sperdute con temperature che scendono anche a 60 gradi sotto zero. Poco a poco le condizioni di vita nei campi di prigionia migliorano. I sovietici cercano di ridurre il più possibile il tasso di mortalità. Dopo un po' cominciarono a nutrirci come si deve. La situazione migliorò decisamente. Poco a poco recuperammo le nostre energie. C'erano anche dei momenti per l'istruzione. Misero su una biblioteca con molti libri, libri in tedesco, e in questa biblioteca potevamo studiare. Ovviamente c'erano anche testi politici, il Capitale di Marx, gli scritti di Engels, oltre a quelli di Stalin e Lenin. Da quei volumi imparammo tutte le loro teorie. I prigionieri tedeschi saranno condannati anche a ricostruire Stalingrado. Per più di 1 milione di persone la città sul Volga torna ad essere la propria città. Una città indissolubilmente legata agli orrori della guerra. Anche per i tedeschi Stalingrado è il simbolo di una sofferenza indicibile. In pochi sono tornati da lì. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare in podcast sul sito www.radio24.it.